Luca. E Mary. Cranica. Oh, Luca. Cranica. Cosa vuoi? Ehi, guarda, mi è caduto il telefono in terra e non riesco a farlo accendere. Sicché ci dobbiamo tenere in contatto così. Cioè? Cioè, me ne è caduto dal muretto di... sarà 30 centimetri, 40 centimetri. E quando le metto il attacco caricabatterie, fa il segno della batteria, per un po' poi si spegne, appare la scritta Google e buh, e non fa altro. E poi si spegne. La scritta Google? Sì, la scritta Google e buh, non è per accendere. Tolto la batteria, l'ho rimessa, controlla tutti i flash. Cosa serve questa scritta Google? Ehi, a me non fare con la mia telefono. Certo, allora senza dare furobusi. Ma quando ti è caduto adesso? Sì, un'oretta fa. E infatti acceso la radio, vediamo un po' più sentamente. Vabbè, rimaniamo alle 7:30, ma d'accordo, ok, aspetta un attimo. Oh, ma aspetta Lu, ma per quanto riguarda la scala la prendi tu? Ok. Ciao. Ma tu non ne avevi uno Lu? Di che cosa? Di che cosa stiamo parlando? Il telefono? C'ho sempre le SSI a casa. Hai un telefono, mi serve, c'è un casino. Siccome quello lo stavo vendendo, poi ho detto, cazzo, se mai mi si pacca l'isola, me lo sono tenuto. Tanto lo vendi, poi di manierina lo vai nel telefono e di no. Me lo sono tenuto come secondo telefono. Io faccio. Vabbè, l'accetto in giro. Cioè, della serie che è caduto in terra e non ha... un po' strano, ma è un bel canale al grosso. Ciao Mary! Lu, lo sto chiamando anch'io, ma non risponde, per vedere se ne è uno lui, perché se l'ha cambiato, per vedere se c'è ancora quello di prima. E la risposta da lui, ciao Mary! Si mangia nella pasta al forno. E Mary, non mi tacci! Cioè, ti è caduto in terra questo telefono, ma cosa... non ha via, giusto? Non ha via d'Android. Ehi, appare, quando attacco il cavetto, appare la batteria per qualche secondo. E buh. E si spegne e basta. Non fa... non si accende più. Non devo fare la batteria attaccata. Cazzo, un muretto di 40 centimetri e lui. Un travo che ho in soffitto. Era appoggiato lì su. Capito? Vabbè, dipende da come cade, se cade la faccia a terra, se cade... dipende. Allora, sia la pellicola è tutto perfetto, non ha graffio, si vede che è caduto di angolo, non lo so, o dalla parte piatta. Per le cose è perfetto, non c'è graffi neanche. Io c'avevo l'S3, c'era poco, mi ero scheggiato, appunto era prodotto a quello che mi aveva dato l'S10. Quindi si fa un telefono e ne ho altro. Ma lo riprendo uguale, però è capito, voglio fare in questi giorni, casino. Ecco perché mi serviva uno provvisore. Così io trovo su cose e ne cercavo un altro, guarda. Sai cos'è Lu? Che nell'SSC ci sono tutti gli account miei, Facebook, Messenger, dove li disinstallare tutto, c'è qualche numero anche, capito? Vabbè, io non mi interessa, sicuramente è rimasto qualche numero, non mi ricordo, volevo tutte queste cose così, e te lo do, provvisore, poi parlo con me, me lo torni. E sto cercando di contattare a Gio Maria per vedere se lui c'ha l'altro che c'aveva prima. Ho detto no, non fare niente lui, ma va. Beh, vedi, se non torno da Gio Maria ti presto quello lì, non è un problema. Boh, sto chiamando a Gio Maria con un altro telefono, il telefono di mia moglie, ma non risponde. sono in campagna. Ma a quelli là le avvisati domani mattina? E beh... Ellu! Ellu! Davvero? Ma davvero vero sì? Luca! Luca! Giomari! Dai, vieni a prenderlo! Ok. Ok, dai, chiudo. Via. E beh, lui, immediato. Luca, ci sei? Sotto il sole.